avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà. Per la seconda volta riapriamo l'argomento del nostro immaginario bidimensionale condiviso. Ricordate, una settimana fa vi annunciai che avrei convocato 100 ascoltatori a partecipare a una notte fantastica nel padiglione di arte contemporanea a Milano in via Palestro, il PAC, dove da qualche giorno è aperta una grande mostra dedicata ai 25 anni della Pixar. Uno straniero venuto da fuori. Il 25 novembre passerò una notte assieme a 100 persone scelte al PAC di Milano. I fortunatissimi saranno selezionati in base al mio insindacabile iniquo giudizio. Per sapere come partecipare ascoltate Melog e andate sul sito www.radio24.it. È il nostro padrone. È lui che sceglie chi va via e chi rimane. Cosa è accaduto in questa settimana? È accaduto che da tutta Italia sono arrivate centinaia di richieste per partecipare a questa notte. Ho pensato di organizzare in questa maniera la transumanza dei melogmani verso il museo della Pixar, di cui ancora ho qualche perplessità e meraviglia. Mi sembra impossibile che persone partano dalla Sicilia, partano da Napoli, partano dalle Puglie oppure partano da altre parti d'Italia per venire a passare una notte in un museo. Una notte, poi la notte finirà a un certo punto, ognuno se ne andrà a casa sua, ma chi verrà da lontano come farà ad affrontare i rigori di una notte solitaria a Milano? E quindi l'idea del social networking, l'idea che le persone possano condividere spazi incorporee ed emozioni, è stato trasportato sul piano concreto. Hanno socializzato questi ascoltatori, hanno creato una sorta di rete per cui quelli che abitano a Milano e dintorni danno appoggio logistico, danno posti letto realmente, ospitalità nelle case o trasporti in auto, quelli che si muovono da varie parti d'Italia hanno offerto posti auto, quelli che vengono da lontano e arriveranno a Milano come Totò e Peppino con la pelliccia, pensando che in quel luogo parlino una lingua aliena e straniera, porteranno beni di consumo delle loro terre d'origine. Quindi sto vedendo e leggendo nell'area Facebook dedicata appunto a coloro che si preparano a partecipare alla Notte dei Cento degli innominabili mercanteggiare fra chi porta una forma di parmigiano, chi porta un salame nostrano, chi porta le bottiglie di vino, chi offre dei posti letto chiedendo un sovrapprezzo per l'uso del bagno. Comunque divertente, sarà interessante per me come esperimento antropologico più per quello che accadrà realmente. Ma in quella notte comunque io li sarò e li saranno le persone, visto che già ne abbiamo selezionati quasi un centinaio, c'è stata data la deroga, possono metterne dentro un'altra trentina, e quindi questa mattina sarà la grande occasione per quelli che ancora vorranno partecipare, vorranno far parte della Notte dei Cento, che ormai saranno 130 probabilmente, o forse qualcuno di più. E qual è la maniera per partecipare? Beh, innanzitutto scrivere una mail a La Notte dei Cento, 100 scritto a numero, @radio24.it, sarete puntualmente ricontattati, vi sarà mandato un modulo di partecipazione, oppure partecipando alla trasmissione di questa mattina, aggiungendo il vostro immaginario fanciullesco di fanciulli ormai cresciuti, grandi, perché l'età media delle persone parteciperanno va dai 35 ai 55. Quindi parlando dell'immaginario della Pixar parliamo di una generazione cresciuta attraverso un supporto condiviso che non è più quello dei vecchi cartoni della Disney, dei vecchi cartoni animati giapponesi che appartengono a generazioni passate. È qualcosa di nuovo, qualcosa che emerge, qualcosa che esce in questo momento come percezione generale di aver condiviso qualcosa di fantastico e comune a tutti. Ciao Gianluca, sono Pierluigi dal profondo sud, sto partendo, sono sul treno, sto partendo per la Notte dei Cento, sono nel carro bestiame con tutte le bestie, speriamo di vederci venerdì, ciao Gianluca. Ho 800 24 0024, quelli che ancora hanno desiderio, hanno voglia, hanno ambizione di partecipare a questa notte, che è una notte sperimentale, una maniera di proiezione di un immaginario radiofonico nel mondo concreto. L'abbiamo già fatto altre volte, agli albori di Facebook, quando ancora il mondo poco sapeva di questa maniera di socializzare attraverso un computer. Facemmo la notte dei mille persone si organizzarono in gruppi in tutta Italia, e chi materialmente, concretamente, chi semplicemente dalle proprie postazioni, condivisero una notte di racconto e di immaginario. Questa volta faremo la stessa cosa, però il tema è più circoscritto. È una generazione di cartoni animati. In ognuna delle storie della Pixar si cela un mondo di riferimenti che appartiene all'esperienza di ognuno di noi. Io questa mattina cercherò di raccontarne qualcuno di quelli che più sono vicini alla mia sensibilità, al mio ricordo. Io sono la seconda generazione, io i cartoni animati della Pixar li ho guardati perché li guardavano i miei figli. Molti di quelli che parteciperanno sono stati fruitori in prima persona dei cartoni animati della Pixar. In particolare abbiamo questa mattina un nostro amico che spesso partecipa alle nostre trasmissioni, che apparentemente per la sua professione, per il suo punto di vista, per il clima e il tono delle sue partecipazioni in altre puntate di Melog, non sospettereste essere un appassionato di cartoni animati della Pixar. Stefano Moriggi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Ciao Stefano, ho trovato anche te un punto debole legato a un particolare cartone animato della Pixar. Mi rendo conto che è una gamma talmente articolata e varia di ispirazioni che ognuno può trovare il suo personaggio o il suo cartone che in qualche maniera ricorda, ribadisce, permette di approfondire alcuni punti della propria esperienza personale. Io ho intuito, ma poi ho anche saputo qual è il tuo. Sentiamo un attimo, così poi entriamo nell'argomento. La spazzatura è uno strazio? C'è tanto spazio nello spazio. Con le linee PNL andate fra le stelle e facciamo pulizia mentre voi siete via. Il gioiello della flotta BNL, la Axion. Godetevi 5 anni di crociera con stile, assistiti 24 ore al giorno dal nostro equipaggio automatizzato, mentre il comandante e l'autopilota fanno rotta verso le profondità dello svago. Ottima cucina, e con i nostri lettini a cuscino d'aria perfino la nonna si diverte con voi. Perché camminare? La Axion, la nave stellare a 5 stelle. Per chi è la BNL lo sta... Ecco, Stefano Moriggi, un filosofo della scienza, con che occhi, con quale attenzione e cosa vede come messaggio tra le righe o messaggio di livello più profondo in Wall-E? Ma sai, una grande epica e anche una grande poetica delle macchine e della loro evoluzione. La storia di Wall-E è la storia di un'umanità ormai stanca, fiacca, incapace di gestire un mondo che ha devastato dal punto di vista del paesaggio, della natura, e che si abbandona, lo sentivamo nel filmato, a una crociera che in teoria dovrebbe essere di 5 anni, poi durerà molto molto di più, che la porterà lontana dalla Terra, su questa astronave dove vive nel lusso, su poltrone galleggianti, dove non fanno più niente, ingrassano eccetera eccetera. Diventano tutti delle grossissime vesciche di lardo che camminano, esatto, su queste poltroncine e non fanno nulla, nemmeno si sfiorano. A un certo punto, ti ricordi, sì, un signore e una signora, per un puro caso, perché Wall-E entra in questa loro astronave per tutta, sì, una storia complicata, si sfiorano la mano e hanno una sensazione di ritrovare un contatto carnale fra persone che hanno dimenticato da generazioni. E hanno dimenticato che curiosamente ritrovano le macchine tra cui Wall-E, a quale è stato affidato in qualche senso la gestione e il futuro del nostro pianeta. Quando l'umanità abbandona su questa astronave il pianeta Terra, e sono le macchine, questi Wall-E, che devono immagazzinare la spazzatura e tentare di porre ordine laddove sembrano esserci più né storia né destino. Però per un cortocircuito anche i robot si disattivano, tranne Wall-E, che rimane da solo e colleziona, mentre fa il suo sporco lavoro, chiamiamolo in questi termini, colleziona oggetti che testimoniano la presenza e la vita dell'umanità, fino a trovare una videocassetta, un reperto archeologico della tecnologia umana, umana di Ello Dolly, a cui si affeziona, perché in quella videocassetta ritrova una storia che potrebbe essere la sua, la storia di una macchina che si è così evoluta, maturando una coscienza capace anche di amare, e attende l'amore che forse l'umanità non è più in grado di sognare, ormai abbandonata su quell'astronave che la porta in giro nello spazio, ma che invece una macchina ormai evoluta e che si fa carico anche del destino ambientale del pianeta comincia a poter maturare. Quindi le macchine cominciano a provare quello che gli uomini hanno dimenticato, anche i sentimenti. Quindi siamo un passo ben più avanti rispetto a tutta la narrazione di favole, cartoni animati, storie in cui ci sono protagonisti macchine. Tutta l'epica giapponese dei grandi robot Transformer è ben diversa rispetto a questa sottigliezza che vedo in Wall-E. La macchina è capace di costruire al suo interno, di subire una sorta di evoluzione e immaginare ciò che noi pensavamo una caratteristica quasi divina dell'umanità: avere sentimenti, covare la nostalgia, costruire dei pensieri articolati. C'è un messaggio, secondo te, molto profondo in questo Wall-E che nessuno magari ha colto? Guarda, io credo di sì, al di là di quella, diciamo così, poetica o se vuoi retorica ambientale, no? Per cui l'uomo non è più capace di... Che è il primo livello di lettura, ecco, più banale. Il primo livello, più banale. Che tutti colgono. C'è questo aspetto dell'evoluzione delle macchine che a me sta molto a cuore, come sai, perché è pensabile, è il grande sogno dell'intelligenza artificiale forte, no? Che una complessità, quando sarà possibile una certa complessità delle macchine, queste potranno avere coscienza e, perché no, anche emozioni, per non dire sentimenti. Cosa turba in questo che ora è ancora un sogno, ma non così improbabile nel futuro? Non tanto l'alterità della macchina, cioè quanto la macchina è diversa da noi, ci minaccia, ci spaventa perché è diversa. No, ci spaventa perché ci assomiglia. Questa è la cosa che spaventa più delle macchine. Quanto più saranno in grado di assomigliarci, tanto più ci spaventeranno, perché non potremo fare altro che considerarli come parte della nostra umanità, in qualche senso. E peggio ancora, cominciare a pensare che anche noi forse siamo macchine e che qualcuno un giorno ha costruito e ci siamo potute evolvere. Se lasciate una porta aperta, un bambino potrebbe entrare nella nostra fabbrica, nel mondo dei mostri. Non ci vado nella stanza di un bambino, non ci voglio andare. Dovete andarci, perché abbiamo bisogno di questo. La nostra città conta su di voi per ottenere le urla di quei bambini. Senza quelle urla noi non abbiamo energia. Sì, è un lavoro pericoloso ed è per questo che mi servite in piena forma. Mi servono spaventatori sicuri di sé, tenaci, duri, intimidatori. Mi servono spaventatori come James P. Sullivan. Altra realtà che da adulto intuisco in Monster, che è un film divertentissimo in cui i mostri sono una sorta di organizzazione industriale il cui scopo, la cui ragione sociale è spaventare i bambini, creare dei giusti incubi nei bambini, e che vivono in una dimensione parallela, anche qui molto tecnologica, molto meccanizzata. La catena di montaggio delle mostruosità prevede che esistano tante porte spazio-temporali che vanno varcate. Ogni porta è la porta alla camera di un bambino il cui mostro deve entrare, ma i due mondi devono rimanere incontaminati tra di loro. Il mondo degli umani e il mondo dei mostri non possono entrare in collisione se non nel momento dello spavento, e quando la bambina entrerà nel mondo dei mostri creerà uno scompiglio, che qui poi c'è un lieto fine. I mostri si scopriranno buoni, i bambini faranno i conti con i loro incubi, li elaboreranno, li metabolizzeranno, gli faranno più paura. In fondo i mostri dei nostri incubi fanciulleschi, ci vuol far credere la Pixar, sono dei bei puffoni di peluche che poi non fanno male, a parte quelli cattivi. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno. Ti volevo raccontare come mia moglie ed io abbiamo plasmato su Monster & Co. i nostri desiderata di genitori, ovvero la prima volta che l'abbiamo visto non eravamo ancora genitori e ci siamo detti come sarebbe bello avere una bambina come Boo. Ah certo, così, piccolina, carina, scapestrata, eccetera. Certo, eccetera. Che non rompe le palle mai. Quando poi abbiamo scoperto di essere in dolce attesa, non sapendo se fosse maschio o femmina, perché questa era stata la nostra scelta, abbiamo incominciato a martellarla di mostra in coda alla pancia. Ma questa è una sorta di tortura prenatale. Esatto, esatto. Vuole il caso che poi alla fine è nata una bimba. è nata una bimba che ricalca appunto questa scapestrata, ricciolina, incontenibile come Bu. Quanto tempo ha adesso questa dolce creatura? Sette anni. E io facevo James P. Sullivan. Godetevi la vita, finché avete tempo. Esatto. Così è, ma infatti il momento è vicino. Ha fatto subito un altro, così almeno fa subito compagnia. È venuto già subito fuori l'amichetto di Bu. E i mostri rimarrete voi. Beh, Fabrizio, perché ha fatto questa telefonata? Qual è lo scopo? Ho fatto questa telefonata perché l'altra volta che c'era la trasmissione riguardante come i cartoni animati abbiano influenzato la nostra esistenza, specialmente quelli della Pixar, ero infognato in appuntamenti di lavoro, non ho potuto intervenire, allora ho voluto lasciare la mia esperienza oggi con la speranza, oltretutto, di venire, di portare anche i bimbi alla mostra. No, i bimbi non possono venire, l'abbiamo già detto, purtroppo. Però faccio anche due giri, che problema. Per una policy che abbiamo scelto. No, essendo una cosa notturna, con adulti, con tante persone, per un motivo di sicurezza. Ma io ho intenzione di fare due giri, tanto sono di Torino, mi viene facile. Diciamo, se volete venire, io vi concedo due posti in questo momento, però i bambini non per cattiveria, non perché mi diano fastidio, perché nessuno può prendersi l'onere di pensare ci siano dei bambini in un luogo così affollato. Ma noi siamo attrezzati di nonni, che problema c'è? Ah, beh, se li posate nonni. Con i nonni. Vabbè, no, Fabrizio, immagino che vorrei portare anche tua moglie. Assolutamente sì. Sì, non è obbligatorio, anzi, molti si stanno attrezzando per delle scapestrate situazioni che vanno al di là, però porta pure tua moglie. È una cosa che abbiamo creato e vissuto insieme. Benissimo, allora però dovete scrivere a La Notte dei 100 numero @radio24.it, se no perdiamo il conto, mandando due email separate, ognuno per ognuno di voi due. Fatelo immediatamente se potete, perché da qui a un paio di ore chiuderemo le iscrizioni e chi entra dentro. Strada, mi fermo, lo faccio subito. Va bene, grazie Fabrizio, arrivederci, andiamo a Mauro. Mauro è morto, quindi andiamo avanti con la nostra rassegna di cartoni. Ora lascia che ti dica come le cose dovrebbero funzionare. Il sole fa crescere il cibo, le formiche raccolgono il cibo, le cavallette mangiano il cibo. E gli uccelli mangiano le cavallette! Ehi, come quello che quasi mangiava te, ricordi? Oh, avreste dovuto Mauro vederlo. Ehi, sono compassionevole come insetto. C'è ancora qualche mese all'arrivo delle piogge. Perciò voi tutti potete provare di nuovo. Ma Hopper, è tra poco la stagione delle piogge. Abbiamo bisogno di raccogliere cibo per noi. Ascolta, se voi non mantenete il patto, io non posso garantirvi l'incolumità. Ci sono insetti là fuori che si approfitteranno di voi. Qualcuno potrebbe ferirsi. Bugs Life, tu Stefano Morigi, Bugs Life l'hai visto, fra quelli che apprezzi, è interessante, no, dunque, è interessante vedere, però ti interessa da un punto di vista proprio dei tuoi studi, perché è molto darwiniano come termine, come film. In effetti c'è questa società delle cattivissime cavallette, la società delle formiche, le prime pongono il pizzo alle formiche, sono vessatorie, e le formiche si organizzano anche loro, brave lavoratrici ma un po' cretine naturalmente, incapaci di organizzarsi. C'è questa formica che promette che riuscirà a salvare la congrega, e lo farà in maniera molto fantasiosa e molto disordinata, dimostrando che anche le società più ordinate hanno bisogno di iniezioni di irrazionalità, di follia per evolversi. Daniele. Sì, pronto. Sì. Volevo dire questo riguardo alla Pixar. Si parla di cartoni animati, ma non sono cartoni animati. Loro utilizzano questo sistema per poter... Sì, è un sistema, diciamo, è un termine convenzionale che usiamo, è vero. Loro hanno una sceneggiatura, una storia. Sono delle vere, sono dei propri film d'animazione, in effetti. Esatto, e l'animazione gli permette con la tecnologia di esplorare qualunque altra via possibile che non si può fare col tradizionale. Una cosa però vorrei dire, alla fine anche la Pixar non è poi così tanto originale negli ultimi film. Wall-E, bellissimo film, ma quella storia mi ricorda un po' quella di un film di fantascienza, 2010, La Seconda Odissea, in cui due robottini si ritrovano a fuggire in un'astronave che è piena di un ecosistema e viene abbandonata, e loro vivono in questa astronave preservando le ultime... però non mi ricordo se ha visto il film o... Quindi lei trova un precedente nella fantascienza, no, può essere, sa, le storie poi riguardo soprattutto a questi temi abbastanza recenti del rapporto del cybermondo, rapporto tra umanità organica, umanità tecnologica, è possibile che certi temi forti si ribadiscano. Ma lei ha telefonato che vuole partecipare anche alla Notte dei Cento? Viene da troppo lontano. Allora però vorrei far intervenire a questo punto una persona che si intende molto perché ha studiato, approfondito il mondo pixel, che è Gabriele Niola. Gabriele, buongiorno. Buongiorno. Un giornalista, un blogger, critico cinematografico. Ecco, hai ascoltato qualcuna delle telefonate, l'ultimo ascoltatore che cita altre fonti a cui sarebbe ispirata la Pixar, ma qual è secondo te il vero segno distintivo di questa generazione di storie animate, di film per la fanciullezza, di cui soltanto adesso cominciamo a 25 anni dalla nascita a tirare le somme, a vedere gli effetti? Guarda, come diceva già qualcun altro prima di me, la vera grande svolta della Pixar è stata la tecnica, che poi ha portato anche una svolta di temi e di evoluzione della forma del cartone animato. Senza stare a raccontarla tutta, comunque la tecnica di animazione computerizzata gli consente di comportarsi durante il flusso produttivo come una troupe di un film, e questo chiaramente ha anche aiutato il mutamento di tematiche. Ma è girato come un film, con una tecnica. Praticamente sì, esatto. Ma io la cosa che trovo straordinaria veramente di questi cartoni animati, che non hanno gli altri cartoni animati sempre in computer grafica, è che sono delle meravigliose truffe, sono delle truffe grandissime, perché hanno il linguaggio dell'animazione, quindi il linguaggio rivolto all'infanzia, ma hanno dei temi che non hanno niente a che vedere con l'infanzia. Una delle mie truffe preferite è quella di Gli Incredibili, che racconta una storia di supereroi, quindi il massimo del cinema per l'infanzia, ma in realtà è un film sull'invecchiare, è un film sul diventare grandi e venire a patti con quelli che erano i propri sogni di gioventù. Allora Gabriele, ci fermiamo soltanto un istante per dare la linea all'informazione della borsa. È molto interessante quello che hai portato qua sul piatto, il tuo tema, quello che già sostenevo io nell'altra puntata dedicata alla Pixar. In realtà esiste qualcosa di profondo, un livello di lettura che soltanto da adulti riusciamo a cogliere ed apprezzare, come aveva detto prima Stefano Morigi rispetto a Wall-E, come tu vedi rispetto agli Incredibili. La domanda per la seconda parte e per partecipare alla Notte dei Cento, se qualcuno avesse interesse a riempire questi ultimi 30 posti liberi, è proprio questa: qual è il livello nascosto, qual è il punto di interpretazione non da bambini che a 25 anni di distanza possiamo fare dei cartoni della Pixar? Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Uno straniero venuto da fuori. Il 25 novembre passerò una notte assieme a 100 persone scelte al PAC di Milano. I fortunatissimi saranno selezionati in base al mio insindacabile, iniquo giudizio. Per sapere come partecipare, ascoltate Melog e andate sul sito www.radio24.it. È il nostro padrone. È lui che sceglie chi va via e chi rimane. Dichiara il tuo nome. Nemo. Fratello Bongo, procedi. Nemo, novizio di colore arancio e bianco, sei stato accompagnato fin qui sulla vetta del monte Wanakalugi perché tu ti unisca a noi nella sacra loggia dell'acquario. Chi vogliamo nei club? Davvero? Sì, sarai capace di nuotare attraverso il cerchio di fuoco. Acqua. Da questo momento il tuo 800240024, quanti ancora abbiano desiderio e profonda e nascosta volontà di partecipare alla Notte dei Cento, sono rimasti ancora alcuni posti che assegnerò durante questa puntata, quanti scriveranno alla Notte dei Cento, 100 scritto come numero, @radio24.it. Cosa faremo con la notte? Passeremo attraverso il museo dei personaggi Pixar nel PAC di Milano, nel padiglione di arte contemporanea di Milano. Noi stessi saremo una operazione di arte contemporanea performativa, perché 100-130 persone che vengono da tutta Italia con i salami e le caciotte sotto braccio, le donne già si stanno scambiando informazioni su come si vestiranno, ci mettiamo le calze o veniamo senza calze, e veniamo scollate o vestite da sera, ma io verrò come sono vestito tutti i giorni, state tranquilli, state sereni, e illustreremo un percorso molto simile a quello che stiamo facendo adesso attraverso il padiglione della Pixar. Abbiamo assieme a Gabriele Niola, che è un giornalista, un critico cinematografico con cui stavamo parlando poco fa, individuato che esistono dei livelli profondi di lettura di queste storie animate. Li vediamo, probabilmente l'avete visti voi da ragazzi, avete fatti vedere dire ai vostri bambini. Adesso che siamo cresciuti possiamo capire realmente cosa si nasconda sotto, cosa noi vediamo sotto. Dicevi, Gabriele Gnola, sugli Incredibili, tu hai visto una lettura dell'incupimento dell'età che passa, non si è più adeguati alle sfide di quando eravamo più giovani. Questo è il senso degli Incredibili, che vengono messi da parte quasi in pensione, ma non si rassegnano a non essere più supereroi. Ma soprattutto la cosa su cui insiste moltissimo questo film, se lo si rivede in questa chiave, è come loro sognassero qualcosa della loro vita e invece capiscono che ha preso un'altra piega. Lo vediamo all'inizio nelle interviste con cui inizia il film, e lo vediamo in una scena bellissima in cui Elastigirl sta andando a salvare il marito, quindi è presa da tutto il suo compito, e in una scena molto d'azione corre, ma in un attimo si specchia in una lastra d'acciaio e si rivede di nuovo col costume che indossava da giovane. Si guarda i fianchi che sono più larghi e ha un piccolo sospiro, e quello è un momento di una delicatezza infinita, inserito poi in un contesto che non ci aspetteremo. Ma questo tema del venire a patti col proprio passato è qualcosa che domina quasi tutta la produzione della Pixar. Lo vediamo nel critico Antoine Ego alla fine di Ratatouille, che capisce di non essere più quello che non era. Lo vediamo in Up, dove all'inizio racconta come una vita possa essere anche bella, perché poi è una vita di alti e bassi come tutte, ma come in tutte le vite c'è il fatto che non si fa quello che si avrebbe voluto fare, chissà perché poi, perché poi viene a chiedersi quasi quello. E questo è qualcosa di totalmente avulso dal il protagonista di Up, lo ricordo, è forse il più nostalgico, un signore che viveva sepolto nei propri ricordi e nei ricordi della propria moglie. Quando deve attaccare i palloncini alla sua casetta per andarsene dal quartiere che stanno cementificando, entra in un vortice di avventure assieme a un grasso boy scout che alla fine diventa lui un supereroe. Il suo bastone col treppiede, che era il sostegno alla sua vecchiezza, diventa una sorta di arma. Si ritrova giovanissimo e, come dicevi giustamente te, si rende conto che non è detto che nel crogiolarsi nelle proprie nostalgie la propria scelta che ci dà piacere, nostalgia che rimpiangiamo, sia stata l'unica possibile. Lui scopre improvvisamente che poteva essere anche un'altra cosa. A quel punto dimentica la moglie morta, dimentica le tristezze della sua casa da vecchio pensionato e per un attimo vive una meravigliosa avventura. Maria Antonietta. Eccomi qua, buongiorno. Pronto? Sì, io sto in ascolto. Non la sentivo più, mi perdoni, sono in macchina, non la sentivo più. Io credo che la Pixar abbia preso il ruolo giustamente dei nostri tempi per sostituire quelli che erano i racconti intorno al cammino dei nostri bisnonni, forse, no? Sì, che grazie a Dio lasciavano un doraccio addosso di bruciato. Ogni tanto qualche bambino finiva in mezzo ai carboni ardenti. Certamente sì. D'altra parte, non li rimpiango, però, c'erano questi racconti che avevano comunque sempre poi un significato altro, no? Che dovevano essere in qualche modo, insomma, portatori di un messaggio per la vita futura dei ragazzi, e credo che la Pixar in questo modo sia la versione moderna, no? Di dare comunque dei contenuti a quello che può sembrare semplicemente un racconto animato, di contenuti molto più alti. Up è di una delicatezza proprio anche nel rapporto anziani e giovani straordinaria, e al tempo stesso credo possa far riflettere molto anche dei ragazzi, anche piuttosto giovani. Ma Maria Antonietta, non credo che chiami a caso, lei vuole partecipare alla Notte dei Cento? Ma certamente, insieme al mio compagno, se è possibile. Venite sempre accoppiati, buon per voi, divertitevi. Ma da dove venite? Verreste? Milano, noi siamo di Milano. Ah, se per voi è facilissimo allora. Sì, però Maria Antonietta, quale supporto logistico potete dare a quelli che verranno da lontano? Ai milanesi chiedo questo sforzo in più. Ci sono delle signore che hanno dei bellissimi negozi di materassi nel centro di Milano, li terranno aperti la notte per permettere alle persone di rifocillarsi e riposare le stanche membra. Le faccio un esempio: altri mettono a disposizione case, altri semplicemente fanno da guide. Lei e il suo compagno dovreste fare qualcosa per chi viene da lontano. Cosa sareste disposti a fare? Guardi, la casa è 30 metri quadri, quindi dubito che possa entrarci qualcun altro oltre in a casa noi. No, in casa per no. Tutto il resto, quello che può essere necessario, più che volentieri. Cioè guida, appoggio logistico, punto fermo? Sì, assolutamente sì, cioè può essere anche accompagnare, portare eventualmente. Allora Maria Antonietta, un minimo supporto logistico lo offre. Scriva anche lei a la notte del 100 @radio24.it, 100 scritto come cifra, e avrà la magica illusione di trovarsi per una notte in una fantastica immersione nel mondo della Pixar. Ecco, ci siamo. Concentrati, velocità. Sono pura velocità. Un vincitore? 42 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, no, no, no, no, resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Questo è Cars, Saetta McQueen, altro film fantastico in cui le automobili, i mezzi di locomozione si umanizzano, diventano con tutti i loro sentimenti, con i loro caratteri, con le loro stratificazioni di personalità, esseri umani. Ci dimentichiamo che sono così diversi dagli esseri umani, che non hanno nemmeno la fattezza umana, può avere un robot, e sono delle automobili con i quali è possibile parlare, così è possibile relazionarsi. Marta Cagnola, buongiorno. Buongiorno, sai che io ieri credo di aver conosciuto davvero Russell, il bambino di Up, solo che è cresciuto perché è John Lasseter, ma è proprio lui, cioè cammina nello stesso modo, gli manca lo zainetto, però è uguale. Ma tu hai dato, ci dai una grande notizia, allora Marta Cagnola, la collega di Radio 24 che spesso mi segue nelle mie incursioni, l'altra sera eravamo insieme alla Notte dei Publivori, ha intervistato per il giornale John Lasseter, che è il personaggio, il guru della Pixar, che poi ci racconterai, che ha una storia complicatissima. Lui è figlio di una illustratrice, una maestra di storia dell'arte, di educazione artistica. Il suo sogno era lavorare alla Disney, ci ha lavorato, poi l'hanno cacciato con un calcio nel sedere, e la sua risposta è stata: ha fatto un colosso a cui la Disney poi ha dovuto andare a bussare alla porta. Sentiamo un pezzetto della tua intervista, Marta, poi ci racconterai questa sconvolgente dichiarazione, che in realtà il bambino boy scout obeso e un po' tontolotto di Up è lui. At Pixar, our films are made to entertain audiences. Alla Pixar i nostri film sono fatti per divertire il pubblico, ma quando noi creiamo questi film vogliamo creare personaggi, storie, mondi che nessuno ha mai visto prima e che siano bellissimi. I'd like to challenge all of the artists that work at Pixar. Mi piace sfidare tutti gli artisti che lavorano alla Pixar a creare cose che li ispirino. Forse tutti quelli che vengono alla mostra penseranno che si tratta di disegni con lo stesso aspetto dei prodotti finiti. Non è così. Sono dipinti, acquarelli, collage, schizzi, sculture, a volte molto stilizzati, ma evocano delle emozioni che ti fanno dire: wow! Sarebbe bellissimo entrare in questo film. Ecco, questo è lo spot alla Notte dei Cento, fatto proprio da John Lasseter, il fondatore e il guru della Pixar. Marta Cagnola, dammi le tue impressioni personali nell'averlo visto. È singolare questo personaggio, il cui nome non è poi così noto e conosciuto. Quando si è saputo che sarebbe venuto in Italia, ho visto proprio pullulare la rete, i social network, di persone che lo ricordavano, lo individuavano come l'artefice del proprio immaginario. Ha questo talento, lui ha raccontato proprio questa storia, insomma, a cui accennavi tu, no? La mamma disegnatrice, lui ha detto: a 14 anni io ho scoperto che c'era gente che si guadagnava da vivere facendo i cartoni animati, allora ho deciso di farlo, poi ha avuto l'idea di far sposare i cartoni animati con la tecnologia, e alla Disney non la capivano tanto, e lui ha detto una cosa interessante: io di tecnologia non ci capivo niente, di computer non ci capivo niente, però sapevo creare dei personaggi che sapevano suscitare sentimenti ed emozioni, e questo è il senso e il segreto. Cioè lui è riuscito, mannaggia lui, a trovare le chiavette con i suoi personaggi per aprire tutte le serraturine dei nostri cuoricini. È incredibile. Come sei tenera, c'è tutti questi immaginari fanciulleschi, come mai, Marta? Va bene, adesso fermiamoci soltanto un istante, mentre Marta Cagnola riprende fiato per raccontarci poi l'aspetto fisico. Mi interessa questo tuo parallelismo con un suo personaggio, non l'ho letto nessuna parte, mi interessa moltissimo. Diamo un attimo una linea all'informazione del traffico, riprendiamo tra un istante. 800 24 00 24 è l'ultima occasione che avrete per certificarvi e partecipare alla Notte dei Cento. Melog 2.0. Guardi, è addestrato. Zampa. Parla. Come va? Sbaglio, quel cane ha detto come va. Oh sì. Io mi chiamo Doug. Ti ho appena conosciuto e già ti voglio bene. Cosa? Il mio padrone mi ha fatto questo collare. È un padrone buono e in gamba, e mi ha fatto questo collare perché io possa parlare. Scoiattolo! Il mio padrone è buono e in gamba. Non è possibile. Oh, invece sì, perché il mio padrone è in gamba. Forte, quel che servono. Ehi, per favore, le guardo contigo. Il colore mi serve. Otashi wa hanashima, per parlare. Sarei felice se la smettessi. Ma se non toccarlo potrebbe. Quello di cui mi sto rendendo conto, mi hanno confermato tutti i miei ospiti, è l'uso poetico della tecnologia, che in fondo è la cifra fondamentale dell'opera di John Lasseter. L'ha detto Marta, l'ha detto lui nella sua intervista, l'ha detto Gabriele Ignola, che abbiamo ancora in collegamento. Abbiamo mandato questo pezzetto di app in cui ci sono i cani parlanti. Anche qui sembrerebbe una sorta di omaggio alla fantatecnologia, al meccanismo che riesce a far parlare il cane, ma l'aspetto meccanico, l'aspetto rudemente, freddamente lontano dalla nostra umanità lo dimentichiamo. Assumiamo il concetto che la tecnologia è qualcosa che ci faccia sognare. Gabriele Niola, sei d'accordo con quello che diceva Marta? Il suo non particolare attitudine ad essere tecnologico, ma l'hai scoperto che la tecnologia fa vedere ogni rappresentazione animata, ogni storia animata del passato rispetto alla Pixar come qualcosa di vintage. È bello perché è vintage, è lontano, ha quel fascino di qualcosa che non appartiene più alla nostra contemporaneità. Sì, è verissimo, loro hanno un modo di leggere la tecnologia che utilizziamo tutti i giorni e di cui ci abbeveriamo, che è incredibilmente sentimentale e secondo me poi incredibilmente giusto. A noi alle volte sfugge. Un terzo livello di lettura pazzesco dei film Pixar è il fatto che nei loro film quasi sempre la verità viene dal video, cioè quando c'è qualcosa di vero, uno svelamento, un'agnizione, è sempre attraverso un video. Eve in Wall-E addirittura vede un suo ricordo, riconosce un suo ricordo solo quando lo vede in video. Woody scopre le sue origini vedendo una serie TV di cui era protagonista, con un vecchissimo filmino in Super 8 che esatto, parte con la... anche in app ci sono i documentari, quello spezzone che avete mandato prima di Monsters & Co. e quindi quel video didattico prima diciamo malvagio, cioè fatto per ingannare, e poi dopo il finale fatto per insegnare, è l'ennesimo esempio di questo, che per loro la verità passa attraverso il video, cioè passa attraverso quello che fanno loro poi musica, racconti per immagine, che è un paradossale salto mortale per leggere la contemporaneità. In realtà il mondo in cui la riproduzione ha maggiore efficacia di quella che noi consideriamo realtà, e la stessa nostra realtà forse è proprio nient'altro che una riproduzione, che un'illusione. Infatti, come vedi, più andiamo avanti più troviamo dei livelli filosofici profondi. Invece Marta Cagnola, che ha visto di persona Lasseter, descrivilo come persona, cosa emana, ha visto il grande successo al di là di quello che ha prodotto, anche di lui come personaggio, non noto come Steve Jobs. Steve Jobs è stato poi il grande supporto alla Pixar nel momento di cui se ne occupò, in cui ha portato non solo tecnologia ma anche risorse concrete. Steve Jobs è entrato nel pantheon dei grandi della nostra contemporaneità perché ha avuto la fortuna di morire giovane nell'apice della sua carriera, del suo fulgore e del suo successo. Lasseter invece è un signore cicciotto che somiglia appunto al giovane boy scout di Up, che però riesce comunque ad affascinare con i suoi discorsi. È l'americano che potremmo trovare in uno di quei caffè con le cameriere che ti portano la brocca ogni 10 minuti per rabboccarti il tazzone. È appunto un signore cicciotto dall'aria bonaria. Ieri si è presentato con questa parvenza di abito elegante sul blu, non mi ricordo se era sul blu o sul grigio, ma perché la nostra attenzione era calamitata dalla camicia in stile hawaiano che aveva sotto questo vestito, con tutti i personaggini di Cars 2. Che tutti gli uomini Pixar mettono queste camicie. Se vai agli studios della Pixar. Sì, usano la loro divisa, questa camicia. Volevano farmela mettere anche a me per la notte dei 100, mi sono rifiutato. Ho accettato il monopattino, che è altro elemento distintivo. Nei grandi studios della Pixar si muovono soltanto coi monopattini. Avrò anch'io un monopattino. Sono un po' delusa dal fatto che non metterei questa camicia, ma hanno detto che tu l'avresti portata. Adesso vedremo se verrò lo stesso, perché speravo di vederti con la camicia di John Lasseter, che dicevamo... Tu metterai uno di quei camicioni abbondanti, naturalmente. Ovviamente, uno dei miei preferiti. Per il tuo dolce segreto. Per il mio dolce segreto, del quale ormai sono tutti a conoscenza, ecco. E soprattutto non so più come uscire da questo scherzo malefico che risale alla nota dei pubblicori. Ma tornando a John Lasseter, c'è una cosa molto carina. Lui aveva attorno tutto questo staff che ovviamente controllava domande e risposte come fanno sempre gli americani, ma in realtà lui è stato gentilissimo, ha risposto a domande di qualsiasi giornalista dalle 9 del mattino, e io ero credo la penultima, ieri l'ho intervistato alle 17 prima della grande serata che poi hanno fatto con Mad Media Guru ieri sera, Ecco, lui è stato gentilissimo, non solo, alla fine dell'intervista io sono uscita, lui è uscito dietro di me, mi ha ristretto la mano, mi ha ringraziato, ha fatto i complimenti per le domande, insomma, molto carino, e si è sincerato di aver risposto bene a una delle mie domande perché non era molto convinto. E io credo che pochissimi big italiani in generale, non solo nel mondo dello spettacolo, avrebbero l'umiltà di chiedersi se le risposte fossero state convincenti e efficaci. I big italiani ormai hanno scoperto questa furbata di mandare messaggini su Twitter e farli lanciare dai loro uffici stampa, e questo riempiono pagine di giornali, figurati se hanno questa delicatezza. La cosa che mi ha colpito è, lui dice nella sua intervista, che il momento più commovente del successo è stato quando, dopo l'uscita di Toy Story 1, ha visto all'aeroporto di Dallas un bambino tutto felice che c'era il pupazzo di Woody, lo faceva vedere al padre. Sentiamo Luca. Luca, buongiorno. Buongiorno. Eccomi. Volevo parlare di, se io mi sono, il primo film che ho visto è stato appunto Toy Story, e l'ho trovato proprio come un romanzo, secondo me, quello che diceva il critico. Sì, è uno spartiacque, diciamo, nella storia dell'animazione Toy Story, senza. Sì, ero andato a vederlo pensando fosse un normalissimo film a cartoni animati, invece proprio ho visto i miei figli che si divertivano per il primo livello della storia, però ho capito che dietro c'era veramente mondo di invenzioni. L'ho trovato molto simile ad alcuni romanzi di Michele Mari sull'infanzia, sul rapporto con i giochi e la difficoltà di diventare grandi dovendosi dimenticare un po' insomma quello che si faceva da soprattutto bambini. La stratificazione in epoche vale per gli esseri umani, vale per i giocattoli. I giocattoli hanno il loro tempo, i loro decenni d'oro favolosi, e trono necessità di doversi reinventare, ricostruire. Ma lei vuole venire alla Notte dei Cento, Luca? Io volevo venire alla Notte dei Cento, penso che oggi manderò la mail. No, la mandi oggi perché sennò non fa più in tempo a venire. Sentiamo Claudio, ultimo ascoltatore, un istante, a un minuto, Claudio. Benissimo, vado velocissimo. Allora, io sentivo parlare degli elementi della Pixar, di John Lasseter, quelli che sono la vecchiaia, avete detto la vecchiaia, l'infanzia, la duplicazione della realtà. A mio modo di vedere tutte queste cose sono solo alcuni, tanti aspetti della costellazione di Lasseter e della Pixar. In realtà, a mio modo di vedere, il segreto di fondo è l'animismo, cioè l'animismo è questa capacità di trovare comunque l'umanità in tutte le cose, negli oggetti, e a mio modo di vedere è presente fin nel marchio della Pixar, fin dai primi nella lampada che cammina, la lampada e anche il monociclo. Devo segarla, se no segano me. Se vuole, se ha guadagnato un ingresso alla Notte dei Cento, mandi l'email come abbiamo noi specificato. A domani. Alors tous deux on est parti dans tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.